l'altra Europa. 7 minuti dopo le 12, sono Federico Taddia, questa è l'altra Europa, siamo in diretta, Radio 24, l'appuntamento settimanale dedicato alle storie, alle persone, alle opportunità, alle possibilità dell'Europa. Non nascondiamo i punti critici, lo sapete, però ci piace il sabato, in questo appuntamento, cercare anche di raccontarvi l'Europa quotidiana, l'Europa che può nel suo piccolo o nel suo grande cambiare o comunque contribuire anche a migliorare un po' la nostra vita nelle sue mille sfaccettature. Le coordinate per seguirci anche online: euronetplus.eu è il portale del network radiofonico europeo al quale apparteniamo, radio24.it ovviamente, da dove poter poi riascoltare la puntata e trovare anche i nostri contributi extra come gli Europost-it che stiamo inserendo nella nostra pagina dell'altra Europa, e poi social network. Il mio account personale lo conoscete, chiocciola Federico Taddia, sia su Twitter sia su Facebook. Si parte ogni settimana un viaggio, oggi cominciamo con Neil Young che ci invita a tornare alla campagna. When I was a younger man, got lucky with the rock and roll band. La sfida europea della biodiversità si chiama DiversiFood, progetto quadriennale finanziato all'interno del programma Horizon 2020, ha preso avvio nel febbraio 2015, 20 partner coinvolti, 12 paesi europei, e la sfida è quella di rilanciare i sapori perduti, ma non solo per nostalgia, ma perché hanno mercato, perché vuol dire contaminare la cultura e le culture, e perché insomma ci sono anche nicchie di persone che possono trovare beneficio da questi sapori, da questi ingredienti, da questi cibi da riscoprire. L'Università di Pisa è coinvolta in questo progetto, con noi c'è il professor Gianluca Brunori che è professore ordinario di politica alimentare all'Università Pisana. Buongiorno Brunori, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Allora, come mai questa caccia ai sapori perduti? Qual è la finalità del progetto? Ma senta, il punto di partenza è che la diversità alimentare è un fondamentale indicatore di benessere. Noi dedichiamo molto tempo della nostra vita al mangiare, non solo nel mangiare ma anche nel parlare di cibo, e noi italiani da questo punto di vista siamo maestro. E una dieta monotona segnala la possibile presenza di malnutrizione, per esempio sotto forma di non solo di sottoalimentazione ma anche di carenza di importanti nutrienti. Sì. E poi la diversità alimentare è fattore di benessere psicologico perché aumenta le nostre possibilità di scelta. Ecco, con questo progetto, di cui l'Università di Pisa è partner, ma ecco, voglio sottolineare altri partner italiani, per esempio Semi Rurali, che in qualche modo è una rete di agricoltori che ci ha coinvolto tutti, l'Università di Pisa, l'Università di Firenze, l'Università di Bologna, intorno a questa idea di sviluppare nuovi prodotti, quindi sviluppare innovazione che parta dall'agricoltura, però basandosi sulla tradizione, quella che noi chiamiamo retro innovazione. Noi sappiamo che i sistemi tradizionali erano caratterizzati da scarsità ma anche da grande diversità, e sì, oggi invece la nostra alimentazione si basa su pochissime specie: il mais, il riso, il grano e la soia, e invece ci sarebbero migliaia di specie commestibili esistenti, che esistevano già nella tradizione. Per esempio pensiamo alle mele. Oggi ciascuno di noi può contare sulle dita di una mano, al massimo di due mani, le varietà di meli che si possono comprare al supermercato, mentre nel secolo scorso se ne contavano 7.000 varietà possibili. pochi. Insomma, già questo numero dà l'idea della grandezza della cosa. Il progetto prevede sperimentazioni e analisi per tutta una serie di prodotti, magari adesso ce ne cita alcuni a livello europeo, e i livelli di sistemi per queste nuove coltivazioni, ma anche le azioni di marketing e di comunicazione, perché c'è proprio un passaggio culturale importante. Non è solo andare a ritrovare quel seme, non è solo convincere l'agricoltore a investire su quel particolare cereale, ma poi c'è tutta la filiera successiva che va sviluppata. Io partirei proprio da questo fatto, cioè che con la globalizzazione dei mercati le imprese cercano sempre nuovi spunti per l'innovazione. Noi sappiamo che ogni anno vengono lanciati migliaia di nuovi prodotti alimentari, però questi prodotti alimentari nuovi in realtà si differenziano di pochissimo rispetto a quelli precedenti, un po' di zucchero in meno, un po' di sale in più e così via. E invece ci sono possibilità enormi di sviluppo della differenziazione, della diversificazione dei prodotti proprio dovuta alla diversità genetica. Certo. E quindi questo potenziale enorme è un potenziale di vantaggio competitivo, e devo dire in questo caso sono i piccoli agricoltori e i sistemi locali rurali che hanno questo, come dire, in mano questo potenziale di vantaggio competitivo. Quindi è una cosa che li consente di competere, non dico alla pari, ma insomma almeno di sopravvivere sul mercato. Poi, certo, ecco, insomma, questo è fondamentale. Brunori, noi conosciamo Horizon 2020, insomma questo progetto di finanziamento legato prevalentemente alla ricerca scientifica. Qual è il valore aggiunto appunto di operare in questo campo, di poter fare questo progetto, questo percorso in chiave europea? Ma io credo questo abbia un valore enorme. Io ormai sono una ventina d'anni che lavoro in progetti europei e mi rendo conto che anche solo la frequentazione di colleghi che hanno la mia stessa sensibilità consente un'apertura mentale enorme, proprio perché qualche volta noi a livello nazionale siamo ancorati a alcuni tipi di dibattito che ci trasciniamo per la nostra storia e non riusciamo a vedere invece cosa sta succedendo nel resto del mondo, ma questo è vero anche per gli altri. Certo. Per esempio questo aspetto della diversità e della tipicità degli alimenti è una cosa che proponiamo prima di tutti noi, e i colleghi stranieri da questo punto di vista imparano molto da noi. Perché ci sono veramente delle potenzialità e delle sinergie possibili veramente incredibili. Da questo punto di vista credo che veramente non si possano fare passi indietro. Abbiamo una manciata di secondi, giusto il tempo per sapere da lei qual è l'ingrediente, qual è il prodotto che le piacerebbe rivedere fortemente. Ma senta, io sono stato adesso in Bretagna, in Francia, sì. Ho mangiato delle galette di grano saraceno, che è un che tra l'altro, nonostante che si chiami grano, non è un cereale, quindi è adatto anche ai celiaci. È un cereale buonissimo che è stato dimenticato da tanti e che è riscoperto e diventa un fattore di gastronomia, di rilancio del turismo e di innovazione di prodotto incredibile. Ma poi ce ne sono tanti altri, il farro, noi abbiamo il farro che ha rilanciato la garfagnana nell'immaginario, sì, italiano e europeo. Oppure pensiamo a tante varietà locali di pomodoro. Noi oggi mangiamo due o tre varietà di pomodoro e spesso non sanno di niente. La possibilità di recuperare questi sapori del pomodoro potrebbero diventare veramente un fattore importante proprio per i consumatori. Certo. Unip.it è il sito dell'Università di Perugia, di Pisa, scusi, dove potete ritrovare e potete trovare anche un po' di informazioni appunto su Diversit Food, questo importante progetto europeo. Grazie davvero Brunori, buon lavoro. Grazie mille, arrivederci, buon lavoro a voi, complimenti. Un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. European Film Academy's Young Audience Award 2015. Tre film per ragazzi, 25 città europee, un solo premio. Sono i numeri dello Young Audience Award organizzato dalla European Film Academy. Le pellicole selezionate per l'edizione 2015 sono My Skinny Sister di Sanna Lenken, The Invisible Boy di Gabriele Salvatores e You Are Ugly Too di Mark Noonan. Il 3 maggio le opere candidate saranno proiettate davanti a un pubblico di giovani di età compresa tra i 12 e i 14 anni in 25 città europee, tra cui Torino. A decretare il miglior film sarà lo stesso giovane pubblico, che dopo le proiezioni trasmetterà i risultati nazionali in videoconferenza a Erfurt, in Germania, dove il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia di premiazione. Per saperne di più, visitate il sito europeanfilmacademy.org. L'altra Europa. Here are four stories of young entrepreneurs who are hosted by an experienced entrepreneur in another country. The European program Erasmus for Young Entrepreneurs creates partnerships like these for periods of 1 to 6 months. Its aim is to encourage entrepreneurship and give SMEs the chance to expand, especially. Se sei un giovane cittadino europeo, grazie all'Unione Europea puoi studiare o fare ricerca all'estero, fare un'esperienza di volontariato, sviluppare un tuo progetto di impresa, trovare lavoro in uno dei 28 paesi membri. Sono le storie che raccontiamo noi ogni settimana e sono il cuore di una nuova campagna di comunicazione lanciata proprio in questi giorni dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea. L'hashtag che racchiude appunto il messaggio è UE per te, quindi l'Unione Europea per te, e l'idea è proprio quella di evidenziare, sottolineare, enfatizzare quelli che sono le possibilità di Europa nella nostra quotidianità. Della campagna e non solo ne parliamo con Evelina Jelenkowska, capo settore stampa e media della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Evelina, ben ritrovata qui all'Altra Europa. Buongiorno Felipe. Allora, una campagna importante, una campagna moderna, una campagna interattiva. Comunicazione è uno forse dei lati deboli dell'Europa, e appunto ripartite da lì per cercare di far capire soprattutto ai giovani quanta Europa ci sia nella nostra vita di tutti i giorni. Beh, hai già riassunto tutto. Effettivamente questa nostra campagna, spesso l'Unione Europea è sentita come un'entità molto lontana. E poi ci sono anche degli aspetti che diamo per scontati, soprattutto i giovani che sono nati in questa realtà, quindi non ne conoscono altra. E quindi noi vogliamo condividere, sensibilizzare, ma soprattutto informare i giovani, ma non solo, delle opportunità che dà l'Unione Europea concrete, ma anche di quello che sta facendo quotidianamente in vari ambiti della nostra vita, perché ormai ce ne stanno pochissimi, se ce ne stanno, dove l'Unione Europea non arriva con le proprie politiche. Quindi abbiamo lanciato questa campagna tra l'ufficio di Roma e l'ufficio a Milano. A Milano c'è anche una particolarità, che i nostri tweet si vedono nelle stazioni della metro, e per 4 settimane, suddivise in vari temi che abbiamo scelto, pensavamo importanti e interessanti. Dal 6 aprile parleremo delle cose, insomma, concrete di quello che l'Unione Europea offre, e invitiamo tutti ovviamente a interagire, a farci delle domande, a farci anche delle critiche, perché così possiamo anche sapere dove c'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Certo, un po' di coordinata. Allora, Europa in Italia è la pagina Facebook, @Europa in Italia al Twitter, e c.europa.eu/Italy invece è la pagina dove potete, insomma, trovare informazioni e dove potete appunto interagire. L'hashtag UE per te questa settimana è dedicata a studio, formazione, lavoro e giovani talenti. Dal 13 al 19 aprile invece si parla di migrazione, aiuti allo sviluppo e aiuti umanitari. Dal 20 al 26 aprile sarà la volta di mercato unico e agenda digitale. Dal 27 aprile al 3 maggio ovviamente il tema è quello dell'Expo, in particolare agricoltura, ambiente e sostenibilità, e tutti i campi dove l'Europa può essere protagonista, tutti i campi dove, insomma, si possono trovare informazioni concrete per chi avesse idee, progetti, sogni, visioni. Questa è l'Europa che cerca di parlare ai cittadini E sarete anche a Perugia, Evelina, appunto, con, sempre con questa funzione di rilancio del vostro messaggio e dei vostri contenuti. Di rilancio e soprattutto di avvicinarci alla gente, perché non vogliamo che sia lontana la realtà. Infatti la settimana prossima, come hai detto, è dedicata all'immigrazione, aiuti allo sviluppo, aiuti umanitari. Non per caso, perché proprio uno dei nostri eventi a Perugia sarà quello di presentare la politica dell'immigrazione, presentando delle storie concrete. Abbiamo invitato dei protagonisti di questa politica, le persone che sono arrivate in Italia e che ce l'hanno fatta, che è un po' un lato umano di nuovo della politica dell'Unione. Ma oltre a questo parleremo con i ragazzi, con le scuole, per chiederci come raccontare l'Europa ai giovani perché sia una cosa interessante qui nell'ambito scolastico. Poi abbiamo anche un evento dove parleremo della libertà dell'espressione, della satira, se ci sono limiti o no, ovviamente sulla scia di Charlie Hebdo, che ci ha visti tutti uniti e di colpo ci siamo sentiti tutti europei, quindi volevamo un po' approfittare di questo sentimento che comunque siamo europei e parlare di questo aspetto. E poi vi porteremo anche in viaggio con Beppe Severnini in uno spettacolo bellissimo che anche quello racconta che cosa ci dà l'Europa in questo caso sotto l'ambito di viaggio. Certo, festivaldeljournalismo.com è il sito ufficiale del festival per trovare l'intero programma. Grazie davvero Evelina, buon lavoro, buona settimana. Grazie a voi, buona settimana. Europost-it. Erasmus per giovani imprenditori, bando per organizzazioni intermediarie. La Direzione Generale Imprese ha lanciato il nuovo bando per la selezione delle organizzazioni intermediarie che promuovono e agevolano la mobilità dei nuovi imprenditori. Possono partecipare all'iniziativa enti pubblici o privati attivi nel sostegno alle imprese, riuniti in partenariati di almeno 5 enti, con sedi in almeno 4 diversi stati europei. Saranno selezionate 12 nuove partnership per attivare 650 progetti di mobilità e scambio tra un nuovo imprenditore e un imprenditore esperto. La scadenza del bando è prevista il 3 giugno. Per tutte le informazioni collegatevi al portale dell'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese della Commissione Europea. E poi c'è la cultura, e poi c'è la musica, poi ci sono le arti, poi c'è la narrazione, poi c'è l'emozione, tanti sassolini, tante piccole strade e deviazioni che noi spesso percorriamo, perché crediamo che questa anche sia l'Europa. E di tutto questo ne parla uno spettacolo in scena in queste settimane al Teatro India di Roma, uno spettacolo intitolato Sweet Home Europa, una genesi, un esodo, generazioni, scritto da Davide Carnevali e la regia di Fabrizio Arcuri, con Matteo Angius, Francesca Mazza e Michele Di Mauro. E sì, il cuore è proprio l'Europa, l'Europa come metafora, come grande casa, come cantiere ancora aperto. Qual è l'Europa raccontata da Sweet Home? Ce ne parla il regista Fabrizio Arcuri. Ciao Fabrizio, ben trovato. Buongiorno. Credo non sia facile portare l'Europa in scena, anzi, può essere quasi antipatico, no? Ci avete pensato che poteva essere controproducente mettere il titolo Europa nel titolo, proprio il termine Europa nel titolo? No, in fondo credo che già nel titolo ci sia, diciamo così, un po' la prospettiva entro cui diciamo così si muove tutto il testo, perché sostanzialmente è un testo critico che mette un po' in contraddizione le grandi dichiarazioni che sono state fatte in questi anni e poi quello che succede quotidianamente, che non è esattamente, diciamo così, aderente a quello che viene dichiarato. Certo. Nel comunicato stampa appunto viene citato il cantiere ancora aperto, no? Come aveva definito Gorbaciov la grande casa europea. Per te l'essere un cantiere aperto oggi è un lato positivo o un lato negativo, nel senso che avete visto l'aspetto bello o l'aspetto stagnante e stantio di questo cantiere non concluso? Diciamo, lo spettacolo, così come il testo, non dà giudizi, si preoccupa di restituire una fotografia, una sorta di istantanea di quello che è la realtà in cui viviamo sostanzialmente. Dunque ci sono proprio, per come è costruito il testo, si tratta di 12 scene, come le 12 stelle della bandiera d'Europa, che non procedono attraverso una narrazione cronologica di eventi, non c'è la storia di qualcuno che viene raccontata, ma sono 12 episodi che mettono sempre, diciamo così, al centro delle questioni politiche, economiche, sociali o religiose, e all'interno di questi quadri in realtà si fotografano un po' gli atteggiamenti. In genere sono sempre abitati da un rappresentante occidentale e probabilmente un rappresentante, perché non è, diciamo così, esplicitata la provenienza dell'alter ego, è un rappresentante probabilmente di un paese appartenente al bacino del Mediterraneo, della macroarea ovviamente dell'Europa, le 28 certo. Microaree che fanno parte della macroarea. E quindi, diciamo, in questa relazione emergono tutte le contraddizioni, le differenze delle tradizioni, delle identità e della cultura, e l'atteggiamento nei confronti appunto delle questioni fondamentali, quelle economiche, politiche e sociali. teatrodiroma.net è il sito per avere tutte le informazioni sullo spettacolo. Tra l'altro oggi alle 18:30 nel foyer del Teatro India si terrà la presentazione del volume Sweet Home Europa, edizione Cue Press, di Davide Carnevali. Quali sono le reazioni del pubblico, Fabrizio? Escono con arrabbiati con l'Europa, un po' più innamorati, ci credono o non ci credono? Diciamo, lo spettacolo è molto ironico e al contempo un po' desolante, e mm-hmm. credo che comunque questa circolarità con cui è costruito il testo fa in modo che in qualche maniera si esca un pochino più responsabilizzati, ecco, questo mi sembra il termine più corretto, nel senso che in fondo l'Europa, esattamente come per ogni questione, poi anche non è solo una volontà, diciamo così, di chi ci governa, ma è anche una volontà collettiva e individuale. Insomma, quindi un po' di sana consapevolezza. Grazie davvero a Fabrizio Arcuri, complimenti e buon lavoro fino al 26 aprile, ricordo, al Teatro India di Roma, ancora in scena Sweet Home Europa. Un Europosit, la pubblicità e poi ancora qua con l'altra Europa. Europosit. Fuori rotta, bando per giovani viaggiatori non convenzionali. Avete tra i 18 e i 30 anni e volete intraprendere un viaggio atipico e fuori dagli schemi? Il bando Fuori Rotta è nato dall'esperienza del regista Andrea Segre e finanzierà progetti di viaggio liberi, possibilmente inediti, lontani dall'idea omologata di pacchetto preconfezionato, con spostamenti lenti via terra o via mare e, soprattutto, rotte animate dalla profonda curiosità di conoscere un altro punto di vista sociale, umano o naturalistico. La candidatura può essere presentata singolarmente o da parte di un gruppo composto da un massimo di 5 viaggiatori. I progetti devono essere inviati all'indirizzo email info@fuorirotta.org entro e non oltre il 10 maggio 2015. Per tutti i dettagli collegatevi al sito fuorirotta.org. L'altra Europa. Say love. l'altra Europa, ancora Federico Taddia, ancora Radio 24 in diretta per raccontarvi l'Europa delle possibilità, delle opportunità, dei progetti, a volte anche, ma sì, ammettiamoli, incomprensibili o strani per chi non è un addetto ai lavori, però ci piace andare lì e capire perché l'Europa, per esempio, guarda proprio l'Italia per una nuova sperimentazione, oppure cosa l'Italia può pescare dall'Europa. Ed è il caso del progetto di cui andiamo a parlare ora. L'Unione Europea investirà 900.000 euro in un progetto per sperimentare nuove tecnologie nei controlli commerciali all'interno dei porti, e questo progetto si terrà a Ravenna, si chiama Port of Ravenna Fast Corridor. Con noi c'è Gagliano Di Marco, presidente autorità portuale di Ravenna, con Vocato, per capire perché è stata scelto, proprio perché è stato scelto il porto di Ravenna, e capire cosa accadrà nei prossimi mesi. Buongiorno Gagliano. Buongiorno, buongiorno. Allora, per i non addetti ai lavori è qualcosa di difficilmente comprensibile. Cosa dovete sperimentare da qui al 31 dicembre 2015, se non erro? Ma diciamo, il progetto Fast Corridor nasce circa un anno fa, è stata una nostra proposta all'INEA, che è l'Agenzia Europea per l'Innovazione per le reti, per recuperare efficienza. Uno dei problemi endemici dei porti italiani rispetto ai peers, diciamo, ai nostri colleghi del nord Europa, è l'efficienza, soprattutto nel tempo di sdoganamento delle merci, che è uno dei fattori per i quali un container oggi parte da Shanghai, va a Rotterdam e torna a Milano. Si calcola che circa 1,5-2 milioni di contenitori, diciamo, potrebbero attraccare a Ravenna, a Venezia, a Trieste, anziché andare a Rotterdam e poi tornare a Milano. Questo come si può recuperare? Uno degli strumenti è agire sulla velocità di sdoganamento. Questo progetto agisce proprio sui tempi di sdoganamento, perché poi Ravenna nel 2013 a febbraio per prima sperimentò lo sportello unico doganale, che vuol dire che, diciamo, con un'unica pratica, adesso semplifico per i radioascoltatori, grazie, vengono riunificate, perché prima dello sportello unico c'erano 18 enti e 64 moduli, e me ne dimentico anche qualcuno, per poter sdoganare una nave. Sì. Adesso con lo sportello unico, diciamo, si è molto semplificato. Poi a valle dello sportello unico, Genova, La Spezia e Ravenna hanno fatto lo sdoganamento sperimentato, sempre, siamo sempre in fase sperimentale, lo sportello, lo sdoganamento in mare, che consente soprattutto per i contenitori di poter sdoganare una merce direttamente sulla nave. Il Fast Corridor è uno step forward, cioè diciamo è un gradino più avanti, perché lo sdoganamento avviene sulla nave e poi il contenitore o una merce anche da rinfusa, in teoria, ma siamo a livello sperimentale, può andare direttamente alla fase di destinazione senza transitare dal porto. Perfetto. Quindi, per semplificare ancora di più, il problema non è tanto l'ingresso del container nel porto, ma è quello che succede al container un attimo dopo, quindi come questo container poi può arrivare alla strada. Quelli che lei cita sono i due aspetti, diciamo, non positivi della stessa medaglia, che ci rendono in questo momento poco competitivi rispetto al nord Europa. Da un lato l'infrastruttura, quella proprio fisica, quindi il problema dei fondali, dell'ingresso nei porti, quello, diciamo, l'hardware. E dall'altro il software. Se uno investe, come sta facendo lo Stato italiano a Ravenna, a Venezia, in tanti porti, quelli della rete TEN-T, i cosiddetti core port dei corridoi europei, visto che parliamo di Europa, in Italia sono 14 questi core ports. Il governo investe soldi, ma la raccomandazione che io faccio come presidente della mia authority da 3 anni è: prima di investire soldi pesanti bisogna capire e vedere se poi a valle dell'attracco il software funziona, perché un contenitore, diciamo un armatore, sceglie un porto, diciamo, sulla base di 3 fattori: l'infrastruttura fisica, il tempo di sdoganamento e il costo, diciamo in una parola l'efficienza in termini di costo e di tempo. Il progetto Fast Corridor nasce per questo ed è nato anche in vista di Expo 2015, perché le merci che devono arrivare a Milano ad Expo 2015 possono attraccare sulla base di una normativa nazionale soltanto in porti che hanno diciamo, un discorso di fast corridor, cioè c'è una velocità di sdoganamento che poi non comporti delle settimane. Certo, parliamo di giorni per sdoganare in Nord Europa e settimane in Italia. Insomma, quindi anche questa è una differenza notevole. E Di Marco, il 31 dicembre 2015, se non erro, è la data entro quale realizzare il progetto, e c'è tempo a sufficienza per fare sperimentazione reale? Siamo a buon punto, okay. Perché abbiamo fatto le attività di analisi e progettazione, abbiamo sperimentato l'interoperabilità. Mi faccio anche citare i partner del progetto, Autorità Portuale d'Avenna, che sono tutti di eccellenza, è il leading partner con Inea, che è l'agenzia europea. Poi c'è l'Agenzia delle Dogane, che è un direttore generale, Giuseppe Peleggi, che segue direttamente lui la sperimentazione. C'è l'Alma Mater Studiorum di Bologna, un'università, diciamo, di alti studi tributari, la scuola di alti studi tributari, che coinvolge anche Siviglia, Strasburgo, Valencia, Valladolid, Borgogna, quindi è una roba internazionale per davvero. E poi ci sono i nostri partner privati, il Terminal Container di Ravenna, dove facciamo i contenitori, e l'app telematica, che è quella che ha sviluppato il nostro Port Community System per tutta, diciamo, al porto. Insomma, tanti attori coinvolti. www.port.ravenna.it è il sito per conoscere il progetto nel dettaglio. Posso dire un'ultima cosa? Velocissimamente. Molto importante. La tecnologia non deve essere mai, diciamo, avversata. Questo è un progetto che può creare qualche problema a livello locale, perché provate a immaginare, una merce in teoria non si ferma più in un magazzino che sta in un porto, però questi localismi dobbiamo un attimo superarli, perché la tecnologia poi può uccidere, ma può creare tantissimi posti di lavoro, perché il lavoro deve essere sempre la stella polare di qualunque progetto. I soldi dell'Unione Europea vanno spesi bene e non per fare dei progetti inutili. Quindi vorrei rassicurare chi fa il magazzinaggio a Genova, a Ravenna, alla Spezia: qui non si perderanno posti di lavoro, ma la tecnologia è il futuro di qualunque attività, che sia portuale, autostradale, ferroviaria, nel settore delle infrastrutture. Insomma, mi sembra un'ottima sottolineatura. Grazie davvero Di Marco, buon lavoro. Grazie a lei, buona giornata. Un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Stage con European Alternatives nelle più belle città d'Europa. Siete studenti universitari con la voglia di fare un'esperienza formativa per il vostro futuro? European Alternatives è un'organizzazione transnazionale di cittadini per la promozione della democrazia, dell'uguaglianza e della cultura oltre lo Stato-nazione, e che offre opportunità di stage a Roma, Londra, Parigi, Sofia e Berlino. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum, una lettera motivazionale e un'idea delle proprie disponibilità di tempo all'indirizzo email info@euroalter.com. European Alternatives organizza progetti, attività, campagne, eventi pubblici, tra cui il Festival Trans Europa, attività di ricerca e di cittadinanza attiva, progetti giovanili e pubblicazioni. Per saperne di più, visitate il sito euroalter.com. L'altra Europa. Eh bien moi, en 2015, je serai mon toit. Et toi? Parce qu'avec 1000 activités culturelles et artistiques, dont 300 événements majeurs, Mons va être le centre du monde. Mons 2015, ce seront des fêtes fantastiques, des jeux de lumière, des lieux nouveaux à partager, des atmosphères étonnantes, à Mons et dans 18 villes partenaires, de Lille à Gand. Bienvenue dans la capitale européenne de la culture. Quello che state ascoltando è uno spot relativo alla capitale, alle capitali europee della cultura 2015. Quanti cittadini europei sanno quali sono le città elette capitali della cultura per quest'anno? Beh, questa è una delle domande che sono poste in una due giorni che si è appena conclusa a Matera, una due giorni promossa dal Comune di Matera e il Comitato Matera 2019. In queste due giornate di lavoro si sono riuniti i responsabili della comunicazione delle capitali della cultura europea di questi anni, proprio per ragionare su come riuscire a diffondere questo concetto, perché capitale della cultura è una bella etichetta, ma ha un indotto che coinvolge coinvolge tantissimi aspetti della vita di una città, di una provincia, di una regione. Insomma, quindi una due giorni di confronto, e volevamo tornare anche noi sull'argomento. Lo facciamo con Serafino Paternoster, che è responsabile della comunicazione per Matera 2019. Ciao Serafino, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti dagli ascoltatori. E poi dovrebbe esserci anche Fernando Alvarez, che è responsabile della comunicazione per San Sebastian 2016. Buongiorno Fernando. Sì, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori da San Sebastian. Fernando, come mai parli italiano? Perché ho vissuto un anno a Roma nel 2010, okay. E ancora non ho dimenticato tutto. È bello, ancora non ho dimenticato tutto, è un bellissimo approccio alla lingua. Sì. Allora Serafino, una due giorni credo importante in prospettiva del lavoro che ti e che vi aspetta. Quali sono i nodi che avete analizzato? No, dunque è stata un'iniziativa insomma molto utile e proficua, perché come dicevi abbiamo riunito tutti i responsabili della comunicazione di tutte le capitali europee della cultura per ragionare su come rafforzare la comunicazione delle ECOC, delle capitali europee della cultura, e partendo proprio dalla domanda che facevi tu all'inizio: quante persone sanno quali sono le capitali della cultura del 2016? Abbiamo visto che insomma pochissime persone lo sanno, ma non solo in Italia ma anche negli altri paesi d'Europa. Allora ci è venuto in mente insomma di partire da qui, di costruire praticamente una casa comune degli operatori della comunicazione delle capitali europee della cultura, per ragionare insieme di volta in volta su quali strategie utilizzare per migliorare la comunicazione. I risultati sono stati molto interessanti. Il primo è molto concreto. Il primo risultato: abbiamo messo un mattoncino per costruire questa casa comune, sì. Abbiamo costituito questa rete di tutte le capitali europee della cultura. Ne mancavano, sono tutte le capitali europee della cultura che vanno dal 2014 al 2019. Uh-huh. Le abbiamo messe insieme, abbiamo costruito una rete, ci siamo impegnati a sentirci frequentemente via mail e dandoci un altro appuntamento. Già abbiamo fissato un prossimo appuntamento che sarà a ottobre, probabilmente a Plovdiv, la capitale europea della cultura del 2019, insieme a Matera. Perfetto. E Serafino, un attimo solo, scusami. Sì. Matera 2019 sembra che insomma che manca ancora una vita. E per Alvarez invece San Sebastian 2016 è praticamente domani. Sì. Fernando, per te quali sono, visto che sei completamente immerso nella comunicazione di questo evento, e quali sì. sono le difficoltà maggiori che stai toccando? Ci sono dei difficoltà particolari per la ECOC particolare di qualcuno, però a Matera abbiamo parlato di problemi comuni che abbiamo tutte le ECOC, sì. Come chiamiamo la capitale europea della cultura. E un problema comune è che c'è un evento di scala continentale, europea, sì. Però molto spesso la incidenza è soltanto locale in molti capitali europee della cultura. Pertanto stiamo lavorando insieme per coordinare una delle azioni per avere l'aiuto della Commissione europea, per avere una incidenza più grande, superiore, e avere una incidenza completamente continentale in futuro. Certo, quindi insomma comunque allargare il pubblico fondamentalmente, perché, sì. affinché non sia un evento solo di una certa zona, ma che possa avere un respiro nazionale e oltre. Sì, specialmente nel caso di Matera e San Sebastian, che sono due progetti politici, nel senso che non sono soltanto un'agenda di concerti e di azioni culturali, però sono i progetti che vogliono una trasformazione sociale, un cambio nella società, una trasformazione per migliorare la società e la convivenza fra i cittadini. Sì. Sarebbe molto utile una coordinazione nel lavoro di comunicazione fra tutte la capitale europea della cultura. Certo. Serafino, un po' il rischio è quello di comunicare tanto la città e magari non il programma, oppure bisogna comunicare cosa? Matera, ecco. Che è capitale della cultura, oppure voi per esempio avete scelto Open Future, che comunque è un ottimo tema, c'è il rischio anche che ci sia un po' di cortocircuito comunicativo? No, ecco, quello che diceva giustamente Fernando, che veramente colgo l'occasione per salutare, è praticamente noi non vogliamo avviare questo processo per fare più comunicazione, per così dire, per fare più propaganda, non ci interessa questo, non vogliamo intensificare la comunicazione per avere, per dirla in termini brevi, più turisti, sì. Noi vogliamo comunicare il significato che rappresenta la ECOC, cioè le ECOC sono nate per creare una comunità europea, ma una comunità che non deve essere solo economica, appunto, ma una vera comunità europea. Ecco perché sono nate le ECOC: creare una comunità europea sulla base della cultura. Però non esiste una comunità se non c'è comunicazione, così come non esiste comunicazione se non c'è comunità. Allora l'obiettivo è far arrivare alla gente, agli europei, il lavoro che le città stanno facendo, che sono un lavoro di cambiamento, di capovolgimento di paradigma, di cambiamento della società, cambiamento di approccio alle cose. Ecco, da Matera, una città del sud che si propone di guidare il cambiamento nel Mezzogiorno, nel paese, per cambiare proprio un tipo di mentalità, un tipo di approccio alla cultura. Quindi non si tratta di comunicare il singolo concerto, il singolo evento, ma di comunicare un processo. Questa è la cosa più difficile, e su questo interrogativo noi ci stiamo cercando di dare delle risposte, stando insieme. Certo, Matera Linietto Basilicata 2019.it è il sito ufficiale. Fernando, ti faccio fare il tuo lavoro, perché sarà bello venire a San Sebastian. Su cosa puntate? Tutti gli ascoltatori possono leggere un po' di contenuto di nostro progetto a dss2016.eu. Io sono ascoltando molto contento quello che dice il mio amico Serafino, perché il nostro progetto è similare nel senso che non... che è molto ambizioso, non è soltanto un'agenda di contenuto culturale, noi vogliamo fare una trasformazione della città. Pertanto, i nostri contenuti servono di guida per Matera, io voglio convidare a tutti i materani e italiani per venire a San Sebastiano 2016 e vedere con i propri occhi tutto che abbiamo progettato per la capitale europea della cultura. Faremo nostro il tuo invito. Un grazie davvero a Fernando Alvarez, responsabile della comunicazione per San Sebastian 2016. Un grazie a Serafino Paternoster, responsabile per Matera 2019. Serafino, sicuramente ci ritroveremo e risentiremo spesso nei prossimi mesi. Ciao e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Un Europost-it e poi ci salutiamo. Europost-it. Master internazionale European Project Planning and Management. Siete laureati e volete diventare operatori nell'ambito delle relazioni internazionali in Europa e della gestione di finanziamenti comunitari? Sono aperte le iscrizioni al Master di Europrogettazione e Gestione dei Progetti Europei, organizzato dall'agenzia formativa Pixel, che ha sede a Firenze. Il Master ha una durata di 5 mesi, si tiene in lingua inglese e prevede uno stage in uno dei paesi dell'Unione Europea. La deadline per l'iscrizione è il 19 giugno. Ulteriori informazioni collegandovi al sito pixel-online.net. Radio24.it è il nostro sito, cliccate nella pagina dell'Altra Europa, lì potete riascoltare l'intera puntata nei contenuti extra, trovare invece gli Europost-it e non solo, perché durante la settimana inizieremo via via ad inserire notizie in più, dritte, coordinate, iniziative, eventi, insomma vogliamo essere un vostro punto di riferimento quotidiano. Questa è l'Altra Europa, un grazie a tutta la squadra, Claudia Schiattone oggi in assistenza, Silvia Righini e Miriam Lucchetti in redazione, Valeria Bernardi in invece ha giocato con i testi. I social sono sempre attivi, potete contattarci @FedericoTaddia su Twitter e su Facebook. Invece l'indirizzo di posta elettronica per contattare direttamente la nostra redazione è l'altraeuropa@radio24.it. L'appuntamento è a sabato prossimo, con me invece domani verso le 10.45 all'interno di Si può fare, non me lo posso permettere, la vetrina del crowdfunding, come ogni domenica. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.